volte penso se tutto questo ha un senso. Le cose si trasformano più veloci del tempo. Tutto quello che vivevo si è mutato, perso come l'eco dei miei passi su questo selciato. Sfide nuove, prove vecchie, sfighe che rimangono. Corro a luci spente, sbatto e risbatto negli stessi errori. Correggo il tutto e adesso son dolori. Rimango sempre in piedi dentro questo cerchio. Come dice Ciampa, poi ripenso quel momento. Se non ci fosse stato, sarebbe un'altra storia. Il nostro nome sarebbe una goccia nell'ago vittoria. Come dimenticare quello che ho passato? Profumi e rumori di un'era che oramai ho vissuto. Se tornare indietro per molti è fortuna, per me va il presente, ogni singola premura. Immagino il presente, perché adesso è il tempo che passa, è il tempo che affretta. Sono perso, ero me stesso, era una ragazza, era perfetta. Scorre la clessidra tra la vita e una rima. Sorrido mentre arriva la prossima mattina. Da bimbo avevo un'altra estensione del tempo, che oggi vai si spreca, forse la sto perdendo. C'erano campi sterminati quando eravamo bambini, campi cancellati da strade e condomini. C'è un volto nello specchio, a me sembra lo stesso, ma se guardo vecchie foto mi chiedo chi è questo. C'era una bella bimba e mi facevo contento, ma oggi si è persa tra le strade che ha scelto. C'era un'utopia tipica dell'infanzia, che ora vola via come la mia speranza. Tuo padre era sereno e tua madre lo amava. Oggi sono due strani chiusi nella stessa casa. Il presente è un regalo, lo dice il nome stesso. Il passato è andato, ma la vita adesso. Immagino il presente, perché adesso è il tempo che passa, è il tempo che affretta. Sono perso, ero me stesso, ero una ragazza, era perfetta. Le persone sono prese da fretta costante, non si accorgono che il mondo intorno a loro sta cambiando. Mutamento più veloce del chiudersi delle palpebre, mentre penso che tra le origini rimango. Il tempo se ne va, il tempo ci rasserena, il tempo ci salva ma a volte ci frena. Il tempo è un angelo, uccide sorridendo, mi rende felice e mi invecchia scorrendo. L'impazienza ormai regna sovrana, ognuno rimane per sé rinchiuso nella propria tana. Chi rischia perde il valore delle tradizioni, sente l'animo preso da continue frustrazioni. Vorrei quella chance per non sprecarla, la vorrei ancora qui per non dimenticarla. Vorrei pochi minuti da rivivere nuovamente, non voglio morire ma neanche vivere per sempre. Immagino il presente, perché adesso è il tempo che passa, è il tempo che affretta. Sono perso, ero me stesso,